9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci qua, Toro Scargiarino, torna ad augurarvi un buon inizio di settimana, un buon lunedì 19 ottobre e faremo il punto su tre questioni che apparentemente sono un pochino diverse, ma ci aiutano a far capire una realtà, quella della lotta al terrorismo internazionale, che malgrado la stanchezza con cui gli elettorati dell'Occidente la considerano a distanza di alcuni anni dal crollo delle torri, dall'11 settembre del 2001, continua a essere la sfida più delicata, più impegnativa rispetto alla quale siamo chiamati a confrontarci nel mondo. La sfida vera su cui poi passa la linea di frattura tra nord e sud, est e ovest, tra civiltà e religioni, in un mondo che di fronte alla crisi economica è chiamato a immaginare nuovi organismi mondiali di coordinamento delle politiche economiche, ma che rispetto a questo problema, come si fronteggia il terrorismo, continua ad avere più facce, strategie ufficiali, intersezioni di servizi segreti in azione, a volte secondo strategie molto diverse da quelle dichiarate nelle conferenze internazionali, nelle posizioni ufficiali dei rispettivi governi, e poi una realtà nella quale per fronteggiare l'onere di operazioni sempre più delicate, sempre più onerose in termini economici, in termini di permanenza sul terreno, su campi operativi molto delicati per un numero di anni molto lungo, avendo scelto la maggior parte degli stati non avere più la coscrizione obbligatoria, ecco l'ingresso in campo in maniera crescente, anche se non molto analizzata ufficialmente, a fianco delle forze armate, dei servizi, cioè dei diversi apparati di sicurezza e di difesa degli stati nazionali, dei, chiamiamoli, operatori di sicurezza e di difesa privata, grandi compagnie internazionali, private contractor, che portano nomi di società sconosciute ai più, ma che sono tra i grandi protagonisti delle azioni sul campo: Black Waters, la Compagnia delle Indie, Dean Corps, cioè società messe in piedi da specialisti che spesso hanno avuto un'esperienza pluriennale o pluridecennale nelle forze speciali di paesi come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, Sudafrica, e che fanno poi dell'organizzazione della sicurezza e della difesa secondo standard molto elevati un vero e proprio business, e che per questo vengono messi sotto contratto dal Dipartimento della Difesa americano, dalla Segreteria di Stato americana, da molte agenzie, oltre che dalle forze armate dei diversi paesi impegnati in quei teatri, per fare che cosa? Per proteggere personalità molto importanti, per rafforzare la guardia perimetrale, cioè mettere in sicurezza installazioni fisse, fare la scorta ai trasporti, la logistica, tutto ciò che le forze armate oramai sempre più sottili e sempre più da concentrare nei compiti operativi e di combattimento preferiscono affidare a privati. Eppure compiti molto delicati, compiti che finiscono in quei teatri per portare molte vittime. E allora approfondiamo questi diversi aspetti con i nostri ospiti di oggi. Se mi consentite, però, vorrei partire. Immaginavo di dover partire oggi dalle accuse dei britannici che ci hanno fatto di pagare in Afghanistan la controparte, per così dire. Voglio arrivare invece a questo secondo punto, perché voglio prima trattare un'altra questione. Voglio chiedere ai nostri ospiti, partiamo dalla cronaca di questi di ieri, dall'attentato che c'è stato in Iran, nel Baluchistan. Quindi io innanzitutto vi presento i nostri ospiti, con i quali iniziamo questo primo punto e il secondo punto dell'Afghanistan, poi arriviamo ai private contractor con un protagonista, un osservatore vero che ci teniamo tra qualche minuto per approfondire questo aspetto. Allora, i nostri ospiti chi sono? Sono innanzitutto Andrea Nativi, direttore della rivista Italiana Difesa. Buongiorno Andrea Nativi. Buongiorno a voi. Poi abbiamo Mauro Del Vecchio, che è un senatore del PD, ma ha un'esperienza pluridecennale nelle forze armate italiane. Dal 2005 al 2006 ha comandato l'International Security Assistance Force, cioè l'ISAF della NATO in Afghanistan. Buongiorno senatore Del Vecchio. Buongiorno direttore. E abbiamo con noi poi Giampiero Spinelli, Nespara della Folgore, che è autore di un libro che vi invito a leggere se siete interessati ad approfondire e a capire davvero cos'è la realtà dei private contractors. Il libro si chiama Contractors, e della Mursia e Spinelli. Con Spinelli approfondiremo l'esperienza sua personale. Buongiorno Spinelli. Buongiorno a a tutti voi, buongiorno. Volevo chiedere innanzitutto a Nativi, l'idea di questa singolare vicenda su che oggi vede i giornali aprire sull'attentato che c'è stato in Baluchistan, un attentato che è costato la vita ad altri ufficiali dei Pasdaran iraniani, un attentato che gli Stati Uniti si vedono non so quanto debitamente additati dall'Iran. Abbiamo visto tutte le immagini in Parlamento ieri, morte all'America. Certo, il Baluchistan è un'area, quella confine con l'Afghanistan, che oggi intersezione di pressioni, di traffici, di presenze probabilmente anche di servizi segreti internazionali, ma quanto invece non è più probabile pensare che si tratti di un regolamento di conti interni al regime all'indomani di un confronto che ha portato a un risultato, Ahmadinejad è rimasto presidente, ma che insomma vede anche forze interne confrontarsi in maniera un pochino poco trasparente, certo non molto comprensibile ai nostri occhi. Il leader supremo del paese, Khamenei, si è parlato che forse sta male, potrebbe morire. Lei a cosa crede? Crede a forze occidentali non dichiarate che iniziano ad organizzare attentati approfittando la tensione tra sunniti e sciiti, il Baluchistan è sunnita e quindi ha recentemente mostrato anche di saper mettere in campo attentati contro le forze ufficiali dell'Iran sciita. Ma cosa crede lei in quello scenario in questo momento? Ma francamente non avrei molti dubbi, queste sono questioni interne che ci spiegano come per fortuna l'Iran non sia quel monolita oltranzista sciita che si vuol far credere, che vuol far credere il regime. Ovviamente il regime non può ammettere che ci sia una situazione così disgregata al suo interno, quindi deve puntare il dito contro il babau internazionale, gli americani, chi gli pare. Se ci fossero operazioni in corso da parte delle forze speciali o dei servizi occidentali, certo non si metterebbero a fare attentati nel momento in cui c'è una vaga speranza di portare Ahmadinejad a ragionare un po' sul nucleare. Che attività siano in corso, peraltro, direi che è abbastanza pacifico e non da oggi. Cioè, chi gioca a destabilizzare da una parte poi ha problemi di destabilizzazione in casa. Tra l'altro non è solo il Baluchistan, ci sono varie aree critiche in Iran, per esempio anche il gioco con i suoi curdi, l'Iran lo fa con una certa veemenza, diciamo così. E quindi sicuramente escluderei un'azione internazionale, l'Iran deve guardare in casa sua e capiamo bene che Ahmadinejad non gli fa certo piacere doversi confrontare con la sua opinione pubblica, con quella internazionale, presentando un paese nel quale si battaglia a colpi di attentati per mettere un po' in crisi la sua dittatura. Che cos'è che ha indotto secondo lei il Pakistan a mettere in atto l'offensiva nel Waziristan, una delle zone in cui si concentra, lo ricordo per tutti, da sempre storicamente la parte residua di Al-Qaeda sfuggita insomma alle diverse operazioni da parte americana e pakistana fino a questo momento? Il Pakistan ci ha abituato negli anni a essere anch'esso in un'area un po' grigia, diciamo, a cooperare da una parte e a chiudere gli occhi dall'altra. La lettura di questa operazione in corso oggi da parte sua qual è? Direi che fa parte della seconda serie di offensive dopo quelle nella vallata dello Swat, dovuta a un errore di calcolo dei talebani che hanno spinto troppo la loro offensiva verso Islamabad, al punto da far pensare ai militari ci sia un pericolo per l'indipendenza del Pakistan, tra l'altro provocando frizioni gravissime tra l'establishment militare e quello civile, acuite da alcune mosse sbagliate americane come quelle del vi diamo gli aiuti civili ma solamente se riportate il bilancio della difesa sotto il controllo dei civili. Ecco, è una cosa senz'altro bellissima, come sempre molto corretta, risponde ai principi, ma non in Pakistan, e aggiungo stiamo facendo la stessa fesseria anche in Turchia. Comunque l'offensiva va avanti, c'è da dire che il problema è che i generali pakistani cominciano a temere che gli americani si sfilino dall'Afghanistan. se gli diamo questa impressione, a loro ovviamente conviene avere di nuovo un regime talebano moderato che possano manipolare. Questa è una questione di sopravvivenza del Pakistan. Bisogna stare molto attenti ai segnali che si danno al Pakistan. Ecco, e siamo arrivati alla questione afghana, e allora prendiamo per recorna, per così dire, una delle questioni più delicate che in questi giorni hanno interessato sulla stampa internazionale il nostro paese, cioè le accuse levate da parte del Times nei confronti delle missioni militari italiane in Afghanistan, accusata di pagare i Taliban, non solo di avere contatti con i Taliban, ma di pagarli. Chiedo innanzitutto a lei, poi chiedo a Del Vecchio e anche a Spinelli. È stato il Foglio qualche giorno fa a rivelare che una delle aree in cui l'accusa del Times, che proviene da fonti americane, questo poi è stato al quarto articolo del Times in cui si insisteva su questa questione, la fonte è stata rivelata come e indicata come una fonte americana. Tra le diverse accuse che c'erano rivolte era quella di pagare, nella fattispecie proprio nell'area di Herat, i talebani. Il Foglio qualche giorno fa ha scritto che poiché il capo dei talebani è un ex ministro, poi uscito per dissensi dal governo Karzai, anzi cacciato dal governo Karzai, il Ghulam Akbari, proprio questo Akbari alla testa dei talebani più temibili nell'area di Herat, qualche giorno fa, anzi il 9 ottobre, sappiamo anche il giorno, è stato ucciso da un cecchino appartenente alla Task Force 45, che è un'unità mista di forze d'élite, tra cui anche operatori italiani che opera in Afghanistan e che si occupa poi della caccia alle prime file dei Taliban, e che questo sniper, questo cecchino che ha eliminato il 9 ottobre Akbari, è italiano. Allora, un po' singolare pensare che noi al contempo paghiamo i talebani e poi siamo impegnati in prima linea con le nostre forze speciali a eliminarne i vertici. Che pensa di questo, Nativi? Io devo dire, sono abbastanza disincantato, cioè secondo me bisogna intendersi su cosa significa pagare, perché pagare pagano tutti, pagano da sempre e poi pagano anche quelli che poi vengono eliminati, nel senso che le faccio un esempio: loro costruiscono una scuola, noi gli diamo i finanziamenti, la scuola costa 3.000, gli diamo 10.000. 7.000 sappiamo perfettamente che rimangono in mano al capovillaggio, che li userà per certe cose, contro magari un altro capovillaggio o un altro... Ma questo però fa parte della strategia a sostegno ai civili, famoso conquistarne i cuori e le menti, non è finanziare direttamente i talebani, o no? È una differenza molto sottile, perché molti dei capi Pashtun in giù non è che siano così differenziati, cioè non è che i talebani arrivano da Marte, per cui sono in buona parte poi talebani, capi locali, capi di briganti, banditi, cioè è normalissimo nel contesto afghano, ma è sempre stato così, che un gruppo passa da una parte all'altra per il miglior offerente o per convenienza locale. Ricordo che i romani si compravano i barbari alle frontiere pericolose, o li combattevano o li compravano, oppure facevano tutte e due le cose. Perciò non mi scandalizzo che si paghi tutti, mi scandalizza un po' il fatto che nessuno abbia protestato per il fatto che gli americani, evidentemente, se il Times ha ragione, ci mettono sotto controllo non solo noi ma anche i servizi, saremmo alleati, queste cosine in teoria non si dovrebbero fare, però si fanno perché è normale, quindi anche questo dico sì, mi scandalizzo ma non mi scandalizzo, di tutta la vicenda non c'è niente che non quagli, però bisogna un po' aprire gli occhi, nel senso di capire che se gli americani fanno spionaggio a danno degli italiani in Afghanistan e lo faranno a danno di altri in teatro, vuol dire che ciascuno fa gli affari suoi, e l'ha sempre fatto, è sempre così, è normale in guerra. La guerra è una cosa che una volta che si inizia, per ottenere il risultato desiderato, si fa qualunque cosa, regole o non regole. Non c'è da scandalizzarsi, perché il Times lo tira fuori, soprattutto considerando che gli inglesi come pagatori non sono male, visto poi che loro vogliono dividere la guerriglia ai buoni e ai cattivi, e come fai a dividere la guerriglia tra i buoni e i cattivi? E quelli che vuoi prendere dalla tua parte te li compri, ecco, e gli fai cambiare partito. Ma sbaglio a pensare che siccome in Afghanistan in realtà siamo in, in procinto di una ridefinizione di strategia. Che cosa davvero l'amministrazione Obama voglia fare dopo le evidenti pressioni dei militari per rafforzare i contingenti, il rinvio dei rapporti su cui fare il punto sulla situazione? È un po' un punto interrogativo. Lei ha appena citato prima l'offensiva del Pakistan sul Waziristan. Si capisce anche forse immaginando che i pakistani, avendo sentito aria di disimpegno americano, forse dicono: meglio che ce ne occupiamo di più noi. Esagero se penso che questi elementi di tensione tra i servizi dei diversi paesi occidentali e significano anche che la coesione della strategia sta venendo meno? Beh, insomma, diciamo che i problemi ci sono, non è tanto a livello di strategia, nel senso che Obama la strategia l'aveva definita in campagna elettorale, l'ha detta a marzo, l'ha scelto il suo uomo per una strategia di controguerriglia, questo gli ha preparato uno scenario. Gli ha detto cosa serve, poi separatamente, perché sennò l'amministrazione si imbarazza, gli ha detto quanti soldati gli servono. Ancora nessuno gli risponde, passano i mesi, ovviamente la gente incomincia a scalpitare, scalpitano i talebani, scalpitano gli alleati, scalpitano i pakistani, perché l'incertezza è la cosa più grave. In Afghanistan non dobbiamo mostrare incertezze, vogliono andarsene via, ecco, allora lo dicono e lo facciano, però al tempo stesso non possono poi andare dagli alleati NATO e dire: beh, guardate, noi stiamo pensando che forse Biden c'ha ragione, ce ne andiamo e ci concentriamo sul Pakistan, quindi l'Afghanistan va in vacca, però voi ci dovete mandare dei soldati in più. Ecco, questo periodo di incertezza va risolto, sennò veramente rischiamo l'implosione, e quello che i talebani non sono in grado di fare militarmente lo facciamo da soli. Senatore Del Vecchio, le chiedo se è possibile, pur dovendosi attenere, ovviamente lei ha dei codici, un codice naturalmente militare, di un altro ufficiale militare, il codice di un parlamentare che quindi riveste un incarico istituzionale e naturalmente anche giustamente lo fa in uno schieramento orientato di parte, ma per così dire, se le dovessi chiedere davvero con cuore in mano di far capire innanzitutto a chi ci sta ascoltando e non è esperto di teatri operativi, non è esperto, non ha idea davvero, tranne quel poco che legge, di che cosa avviene su fronti come quello, quando Nativi dice: ma in definitiva lo fanno tutti, e ci spiega che nell'aiuto alle popolazioni civili c'è una certa parte sul quale poi si chiude l'occhio per vedere che flusso prende, e magari ci spiega anche che i diversi contingenti occidentali hanno opinioni diverse su come confrontarsi rispetto a quelli che vengono chiamati terroristi, ma che poi hanno strategie etniche, sappiamo quanto conta in Afghanistan, l'abbiamo sottolineato più volte, il problema tra Pashtun e Tagiki. Ricordo a chi ci ascolta che la comunità internazionale, cioè gli Stati Uniti, sono in procinto di dire a Karzai: non hai vinto le elezioni, deve andare al ballottaggio col Tagico Abdullah. Ecco, anche lei è d'accordo nel poter dire che poi queste cose in realtà, che sollevano tanto scandalo, più o meno le fanno tutti? Oppure non è vero? Beh, direttore, io, come lei sa, sono stato il comandante di ISAF e quindi ho avuto le mie dipendenze circa 40 contingenti diversi di varie nazioni. Evidentemente, intanto, il comportamento sul terreno, fermo restando il fatto che le regole di ingaggio sono uguali per tutti, si modifica a seconda della predisposizione degli uomini o dei contingenti a favore della popolazione. Io scarterei, non sono d'accordo con il dottor Nativi, che saluto naturalmente, in merito a questa affermazione circa il fatto che i contingenti o le nazioni possano pagare i talebani per evitare di essere attaccati. Invece io vorrei sottolineare quello che è stato detto, che esiste un'attività importante, essenziale a favore della popolazione, che non si traduce nella consegna di somme nei confronti dei capi villaggio, si traduce nella realizzazione di opere, nel sostegno umanitario, che naturalmente è essenziale per poter raggiungere, come lei diceva, quel consenso della popolazione, è essenziale per conquistare i cuori e le menti della popolazione. Senza questo non si ottiene nessun risultato in Afghanistan. non naturalmente i servizi non dipendevano da me in Afghanistan, ma io avevo dei frequenti rapporti, una collaborazione molto stretta con i servizi, soprattutto italiani evidentemente, ma anche delle altre nazioni. Non ho mai avuto conoscenza, ma neanche sentore del fatto che venissero retribuiti i talebani perché non attaccassero naturalmente oppure non minacciassero la sicurezza dei nostri uomini. Quello che posso affermare è sicuramente che gli uomini sul terreno combattono fortemente a fianco delle forze afghane per cercare di mantenere la sicurezza dell'area e che naturalmente poi ogni contingente cerca, questo è molto importante, di conquistare una sicurezza non soltanto con le armi ma anche con una predisposizione a favore di quelle popolazioni che poi sono il cuore del problema. Eccoci tornati in studio, Oscar Giannino, oggi insieme ai suoi ospiti siamo partiti dall'attentato che ha decapitato, per così dire, alcuni alti gradi dei Pasdaran in Iran. Abbiamo visto che avviene nell'area vicina all'Afghanistan e al Pakistan soprattutto. Il Pakistan sta compiendo un'operazione molto dura, molto intensa nel Waziristan contro Al-Qaeda. Siamo passati a sfiorare le accuse che ci sono venute dalla Gran Bretagna di pagare i Taliban nelle aree dove sono in Afghanistan e ora vorrei un secondo toccare un aspetto tra i meno raccontati dei conflitti di questi anni nella lotta al terrorismo, e lo faccio con Gian Piero Spinelli, sapendo che questo tema avrebbe esposto me personalmente, la trasmissione, la radio, alla possibilità che molti di voi in ascolto legittimamente ci criticassero. E nel presentare questo tema all'inizio della trasmissione volutamente ho accentuato il rilievo dell'importanza dei private contractors, cioè delle società private nate per sicurezza e difesa, che in maniera crescente vengono utilizzate dagli anni 90 nei teatri operativi da grandi paesi dell'Occidente, per vedere quale sarebbe stata la reazione. E la reazione è come mi aspettavo, legittima, però devo darne conto naturalmente a chi ci ascolta. Dei messaggi che mi ho ricevuto, 9 su 10, 90 su 100, è molto duro, le condanna, dice non vi si può ascoltare, Giannino lei è impazzito, lei ha fatto un ritratto come se i mercenari fossero degli eroi, la guerra al terrorismo è un business infinito ai danni dell'umanità, non si può elogiare chi è in prima linea per fare il business nella lotta al terrorismo, cioè le grandi aziende private di ex appartenenti alle forze speciali degli Stati Uniti o della Gran Bretagna o di questi paesi. Mi pare di capire che le reazioni sono improntate a una condanna molto netta e soprattutto al tema ma chi se ne importa di questi mercenari. Allora, la mia opinione è che innanzitutto bisogna tentare di capire i fenomeni, io rispetto l'opinione di tutti, però ho desiderato fare questa trasmissione chiamando Gian Piero Spinelli, che questo ha fatto nella vita e che lo scrive oggi con una testimonianza diretta in cui spiega davvero in che cosa consiste il contesto operativo, il terribile impegno di fatica e di tensione che significa svolgere contratti in quelle aree, per innanzitutto tentare di capire, se vi interessa a voi in ascolto, che cosa il private contractors non è. I private contractors sono più numerosi delle forze armate americane in Iraq, sono così da pochi mesi dopo che è caduto Saddam, ma non, sottolineo tre volte, dal punto di vista del diritto internazionale non sono mercenari. Forse è bene capire prima di condannare. Spinelli, vogliamo spiegare innanzitutto la differenza? Praticamente il contractor è proprio, se andiamo ad analizzare proprio la stessa Convenzione di Ginevra e analizziamo proprio i regolamenti che a livello internazionale e anche proprio governativo sono dati proprio ai contractor, noi vedremo chiaramente che i contractor non possono in nessun modo essere impiegati, come dire, in azioni dirette al seguito delle forze armate. L'impiego dei contractor oggi, soprattutto nei grandi scenari di crisi internazionale come l'Iraq, l'Afghanistan e altre realtà che possono essere realtà sudamericane o dell'Africa o asiatiche, praticamente sono basate soprattutto su dei dispositivi di sicurezza e protezione sia delle grandi multinazionali che di enti governativi. E proprio il discorso che non esiste praticamente nessun tipo di regolamento che permette ai contractor di essere attivi, cioè nella prima linea, cioè proprio in azioni dirette. Le lascio solo, le dico solo riguardo l'Iraq un esempio. In Iraq praticamente le regole di ingaggio del CPA, praticamente la Coalition Provisional Authority aveva praticamente promulgato praticamente dopo la caduta di Saddam, diceva chiaramente ai tempi di Paul Bremer. Sì, Bremer, esattamente, che era proibito qualsiasi tipo di impiego dei contractor al fianco dei soldati. Cioè chiunque, anche in situazioni di estremo pericolo, avrebbe aiutato proprio o si sarebbe, come dire, avrebbe praticamente affiancato a scontri a fuoco le forze della coalizione, sarebbe stato arrestato e deportato, cioè è rimpatriato immediatamente. Perciò, per dirle, in questi anni si è creato praticamente sono state messe in giro delle informazioni sbagliatissime, è chiaro, poi possiamo discutere per quale motivo, però delle informazioni che non erano assolutamente corrette, cioè il contractor può rispondere al fuoco solo in virtù di un'azione di legittima difesa personale e del VIP del cliente affidatogli o dell'installazione affidatagli. Non esiste nessun tipo di azione diretta da parte dei contractor al seguito delle forze armate. E quindi non è un mercenario, per essere chiari, cioè non appartiene a compagnie di ventura che invece intervengono esattamente per azioni militari. Ora, io dico questo perché a me interessa che chi ci ascolta rifletta su come la guerra al terrorismo, ma la realtà poi dei conflitti asimmetrici che da vent'anni si sono moltiplicati, da che è caduto il muro, in altre parole, da che è finito lo scenario internazionale per cui le forze armate erano pianificate, organizzate, armate in vista di ipotetici scontri tra l'est e ovest, grandi scontri di divisioni corazzate, cioè, la guerra è cambiata, è un'altra cosa in cui bisogna essere più agili, forze speciali, intervenire con... Poi in realtà si fanno guerre ancora di anni come quella al terrorismo, ma tutto questo naturalmente implica che quel tipo di guerra lì, tutta una serie di funzioni che lo facevano prima le forze armate tradizionali, non le possono fare più le forze armate tradizionali. E allora mi interessa che chi sta a casa capisca che il contesto di queste compagnie private di sicurezza è un contesto che è diventato ordinario da molti anni a questa parte. Secondo me è sbagliato non tentare di capire di che cosa si tratta, prima di darne una condanna morale, non morale, ma cerchiamo di capire, altrimenti come stanno in piedi gli apparati di sicurezza dei diversi paesi? Il generale, la chiamo generale, senatore Del Vecchio, lei che pensa di questa questione? Come mai le opinioni pubbliche dei paesi occidentali di fronte a questo fenomeno, cioè guerra asimmetrica che si fa anche con questo tipo di compagnie private per proteggere i VIP, proteggere la logistica tradizionale delle forze armate, perché non ne vogliono sentire parlare le opinioni pubbliche? Direttore, io credo che una parola importante in questa tematica sia la legittimazione. Quando noi parliamo degli interventi dei contingenti militari in queste aree di crisi, che ormai sono numerosissimi, lei l'ha ricordato, vanno avanti per anni e anni, l'aspetto più importante che garantisce il sostegno dell'opinione pubblica è la legittimazione, che naturalmente deve essere la base di queste operazioni, legittimazione che normalmente viene data appunto dagli organismi internazionali, dall'ONU. Ecco, quindi probabilmente l'opinione pubblica, credo mondiale, italiana in maniera particolare, non vede in questo impiego di questi contractors questa legittimazione che possa giustificare un'azione, non vede praticamente dei compiti ben precisi stabiliti sempre da un'organizzazione internazionale, non capisce quali sono, oppure se esistono, magari non sono formalizzate adeguatamente le regole di ingaggio, per cui naturalmente non accetta questo tipo di impiego. E contemporaneamente questo è un problema che riguarda però i governi a questo punto, perché mettono in piedi operazioni, le definiscono fondamentali, fanno oltretutto sopportare all'economia dei loro paesi e soprattutto anche poi un bilancio di vita agli appartenenti alle forze armate dei contingenti impiegati, e insomma lì una certa pesantezza, e contemporaneamente però fanno tutto questo senza spiegare troppo bene alle opinioni pubbliche come questo avviene. È vero o no, Nativi, che c'è questo problema? I governi tendono a mettere in piedi delle operazioni di cui sono diventati sempre più resti a spiegare anche solo concretamente come funziona, no? Ma certamente i contractors aiutano moltissimo, perché da un lato sono un tipo di risorsa a negazione plausibile, ovvero sia fanno delle cose in qualche maniera, le fanno per te, ma tu non sei direttamente coinvolto, poi non sempre così, ma comunque questo è un concetto, perché se Obama dovesse dire che il Dipartimento della Difesa ha 150.000 contractor oltre ai soldati sul terreno, insomma avrebbe dei problemi politici. Diciamo che anche i morti dei private contractors, che sono morti di nessuno, non impegnano i governi. Per questo che io tendo a difenderli, lo dico perché naturalmente mi stanno arrivando raffiche di letterali insulti dagli ascoltatori che dicono che difendo i mercenari, che sto dicendo va viva i colpi di Stato. Attenzione, i morti, che sono state molte migliaia tra i private contractors, siccome sono morti di nessuno, diventano, tra virgolette, contributi alla sicurezza che i governi sono più pronti a spendere, se posso dire, o no? Ma c'è una cosa, adesso vedrà che i suoi ascoltatori si infurieranno, ma in realtà potrebbe anche essere una soluzione per determinate missioni ONU. Perché dobbiamo farle fare con costi altissimi, efficienze minime, a dei contingenti raccogliettici che lo fanno per sbarcare il lunario, mentre potremmo farlo fare in tempi più rapidi e con minori costi a gente tra virgolette professionista? E poi un'altra cosa, ma lo sapete naturalmente che la maggior parte dei contractor non spara un colpo ma fa attività logistiche pure, e che sono locali, cioè la maggior parte dei contractor in Iraq e in Afghanistan sono iracheni e sono afghani, gli stranieri sono pochissimi. Poi distinguiamo tra le PMC, cioè le Private Military Companies, e le Private Security Companies. Ora, il nostro collega di dibattito stamattina ci diceva che non fanno mai operazioni dirette. Attenzione, come è vero che la maggior parte dei contractor fa logistica, quindi non fa niente armato, anzi a volte non è neanche armata, è vero anche che ci sono alcuni diciamo datori di lavoro che i contractor li usano attivamente, per esempio al confine con il Pakistan, tanto per non far nomi, ci sono delle agenzie americane che usano dei contractor che a quel punto lavorano proprio diciamo come stringers per l'agenzia, ed è una cosa anche questa abbastanza normale. I stringers sono coloro, come si usano per i giornali che non hanno corrispondenti, sono i cacciatori di notizie, sono quelli che procacciano informazioni per i servizi in aree delicate, quindi stiamo parlando di uno dei compiti in cui nell'infiltrazione è più delicato davvero, bisogna conoscere lingue, avere contatti con i capi tribù eccetera eccetera, cioè cose molto molto delicate. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando, dopo essere partiti dall'attentato di Rimbalucistan ai vertici del Pasdaran iraniane, poi le operazioni pakistane in atto contro Al-Qaeda, poi le accuse rivolte dal Times britannico all'Italia di pagare i Taliban, poi la realtà dei conflitti internazionali contro il terrorismo in questi anni, in cui queste compagnie private di sicurezza e difesa hanno assunto un compito sul quale i media, i governi tendono a non volersi concentrare troppo, e poi avvengono fenomeni come quelli avvenuti in Italia quando viene nella primavera del 2004, capita l'uccisione di Maurizio Quattrocchi, tutti lo ricordiamo, e allora a quel punto i paesi scoprono che c'è una realtà, che è una realtà sempre più importante in questo tipo di operazioni, e i paesi si dividono e dicono ma questi sono i mercenari, ma in definitiva perché bisogna difenderli, non sono né santi né eroi, non lo fanno neanche al servizio di una bandiera di un paese come naturalmente il militare, le forze armate. E io temo che solo se capiamo qual è la realtà di questa maniera di condurre le operazioni ci facciamo un'idea davvero di quello che i governi poi tendono a fare, spesso fanno, però tendono sempre a voler meno dire, alle proprie opinioni pubbliche. Io per questo penso che bisogna capire, tutti coloro che vogliono capire fanno bene secondo me a leggere il libro di Giampiero Spinelli, in cui viene descritta la realtà del contesto operativo che cosa significa fare questa scelta. Capisco che chi ascolta sta dicendo in questo momento va bene, d'accordo, però non sono né santi né eroi, certamente, ma nella vita non ci occupiamo solo dei santi e degli eroi, cerchiamo di capire davvero chi fa queste cose. Spinelli, lasciamo perdere la storia del nostro paese, perché è giusto che il nostro paese diffidi da un certo punto di vista di coloro che credono in certi valori, perché poi coloro che hanno un'esperienza, una formazione nelle forze armate e soprattutto nei reparti speciali sicuramente fanno una scelta che è innanzitutto anche una scelta di vita. Io ne conosco molti ed è una scelta di vita. Alcuni pensano che questo abbia a che fare con la politica eccetera eccetera, perché si pensa che chi opera una scelta di formazione specializzata nelle proprie forze armate di questo tipo lo faccia magari perché è un pazzo nazionalista o cose di questo genere. Però dobbiamo capire che molti, è giusto che la pensino così in Italia, a prescindere che poi la si possa o meno pensare così. Detto questo, la realtà che lei ha conosciuto stando in Iraq, operando con una delle maggiori poi compagnie internazionali, è una realtà che si sentirebbe di definire come? Pazzi spostati? Glielo chiedo apposta provocatoriamente, ma a nome di coloro che ci ascoltano a casa e che sono convinti che voi siete un manipolo di pazzi pericolosi. No, assolutamente, anche perché io le dico, noi abbiamo partecipato praticamente a progetti, abbiamo garantito la sicurezza di progetti di ricostruzione di proprio ricostruzione civile, praticamente come strade, elettricità, cioè io le dico personalmente, io lavoravo soprattutto con gli iracheni, ero molto amato degli iracheni anche perché avevo, come dire, un modo di partecipare, cioè di comunicare con loro molto più, come dire, aperto degli americani, ma non è assolutamente, queste cioè sono informazioni sbagliate, è chiaro. Come ci sono i contractor, determinati contractor che hanno avuto dei comportamenti sbagliati, ci sono anche tra i soldati, cioè non dimentichiamo che gli episodi disciplinari fanno parte di ogni uomo praticamente, dal comportamento, dall'educazione, dalla morale di ogni uomo. Io ho lavorato con gente bravissima, gente altamente professionale, che, come dire, ci siamo trovati benissimo, abbiamo anche con la popolazione civile, basti pensare che io lavoravo soprattutto con io e un altro italiano che era con me, lavoravamo soprattutto con gli iracheni volevano soprattutto lavorare con noi. La ringrazio, Spinelli. Senta, senatore Del Vecchio, possiamo dedicare un minuto a un'analisi fuori dai denti di come lei vede attualmente sostenute o non sostenute le forze armate italiane, a cui continuiamo a chiedere tanto in termini di logoria di mezzo, uomini, materiali, e insomma, siccome le esigenze al bilancio sono quelle che sono, in realtà riusciamo a malapena a finanziare oramai l'attività ordinaria di addestramento di chi fa la rotazione per andare all'estero, ma per tutte le altre unità è un po' così la situazione. Lei come la vede? Che cosa concretamente si può fare? Bisogna abbassare le richieste, forse, se vogliamo dare sempre meno. Dovremmo abbassare le richieste, ma come lei sa, direttore, abbassare le richieste vuol dire rinunciare a un ruolo che mi sembra l'Italia non possa, a cui l'Italia mi sembra non possa abdicare. E allora bisogna dargli di più. Certo, io ritengo proprio di sì, perché effettivamente stiamo vivendo sullo sforzo, sulla volontà, sul sacrificio dei nostri uomini e delle nostre donne. In realtà il problema che si deve porre è un problema di prospettiva. I risultati di una non sufficiente alimentazione finanziaria non si vedono immediatamente, ma si vedono dopo qualche tempo. E se noi non torneremo, non cambieremo naturalmente la linea che purtroppo è stata intrapresa, per tante ragioni non scendo qui nel particolare, probabilmente potremmo pagare delle gravi conseguenze nel futuro. Nativi, se dovesse fare da osservatore oramai da qualche decennio del bilancio della difesa italiano, a prescindere, o anzi con elementi più di continuità che di discontinuità, del colore politico che si alterna al governo, perché poi c'è una scelta sul quale, tranne il recente ministro Parisi, secondo me uno dei migliori della recente storia, lo dico a prescindere dalla coalizione, uno dei migliori ministri della difesa è stato Parisi, sarà perché aveva fatto l'annunziatella, si è battuto apposta per la coerenza. Se gli chiediamo molto alle forze armate bisogna dargli di più, se no dobbiamo ridimensionare l'utilizzo, e questo mi sembra più coerente. Ma a prescindere da questo, lei che previsioni fa per il futuro? Continueremo a chiedergli molto e a dargli poco, o abbasseremo le penne? No, Temo che per ragioni di grandeur malintese continueremo a chiedergli tanto e continueremo a dargli poco. Appena visto il bilancio per il 2010 e si va in questa direzione. Per cui non credo che saremo in grado di fare quello che fanno altri paesi. Condivido peraltro il suo giudizio su Parigi, veramente se non il migliore, uno dei migliori nella storia d'Italia, però vede, le priorità attuali sono diverse, per cui il bilancio della difesa verrà tagliato e viene tra l'altro tagliato anche abbastanza male, perché si taglia l'esercizio, che è quello che consente di preparare tra l'altro i soldati, addestrarli e fare manutenzione in mezzi, al punto che se mandiamo i soldati per le strade è perché quelli sono soldati altrimenti disoccupati. Siccome non si possono addestrare, non si possono preparare, non hanno i mezzi, l'equipaggiamento per andare all'estero, l'unica cosa che gli possiamo far fare è mandarli per le strade a fare le strade sicure. Allora mi chiedo perché non passarli all'arma. Io ringrazio Spinelli e ricordo appunto Contractor, editore Mursia, per chi vuole approfondire il suo libro appena uscito. Ringrazio Nativi, ringrazio il senatore Del Vecchio, ridacchio con insieme al senatore Del Vecchio, perché come sapevo ho immediatamente ricevuto sms che mi dicono: ma come? Parigi era il governo Prodi. Il problema è che italiani in ascolto, impariamo a giudicare nel merito quello, ho detto, mio ministro della difesa, perché è stato coerente nel battersi per i progetti. Non ho parlato del colore politico, io diffido di questi italiani che oramai dividono ogni questione invece che pensare al merito. Berlusconi sì, Prodi sì, Berlusconi no, Prodi no, ma occupiamoci un pochino del merito. Questo è il mio appello e non è un appello all'equilibrio e all'approfondimento. Benissimo, grazie in regia a Pietro Lacorte e in redazione Alessandro Marco Tulli, la linea Generale Radio, appuntamento a domani. Yeah.